Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le piogge e l'esondazione del Seveso allagano un pezzo di Milano nel giorno nel quale la città ospita il vertice europeo dei ministri degli interni e della giustizia. È già scontro sull'allerta, arrivata in ritardo. Il maltempo colpisce anche il Veneto, anche qua allagamenti, alberi sradicati e caduti su alcune linee ferroviarie, traffico interrotto. In settimana prossima l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle su riforma e legge elettorale, dopo l'ok condizionato dei grillini. 50 minorenni ritratte nude molestate in due quartieri bene della capitale, arrestato un fotografo, nel suo PC centinaia di scatti. La spesa delle famiglie nel 2013 ha toccato i minimi da 10 anni, a tagliare i consumi sono state anche le famiglie più ricche. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, sempre il 349-238-6666, se volete commentare, ma soprattutto la mail, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, infine il mio account Twitter, se volete, Simone Spezia. Parleremo anche, o almeno vi faremo un breve riassunto delle parole che ha detto stamattina ancora sull'Europa il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e però in apertura parliamo di maltempo, a partire da quello che sta succedendo in Lombardia e a Milano e quello che è successo questa mattina. Francesco De Remigis è in studio con noi per fare un punto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Il Comune di Milano ha annunciato in tarda mattinata che l'esondazione del Seveso è terminata, ma i disagi proseguono, sono circa 2.000 le persone rimaste senza elettricità nella zona nord della città e purtroppo rimarranno senza luce almeno fino al primo pomeriggio, ha fatto sapere il Comune, dove anche la viabilità nella zona nord della città è rallentata. Il comune consiglia di non usare l'auto, anche perché le metropolitane hanno ripreso il servizio regolarmente dopo che le stazioni di Istria e Zara erano state chiuse per tutta la mattina perché rese inaccessibili dall'acqua in superficie. I disagi più intensi sono stati limitati alla zona lungo l'asse Fulvio Testi e si spera che nel corso della giornata riprenderà regolarmente anche il servizio. Adesso verremo anche alle altre regioni perché ci sono stati problemi anche in Veneto, ma in Lombardia non è stata toccata solamente Milano. No, Lombardia, anche Pavia e insomma un po' Lodi, un pochino tutte le città limitrofe del nord, del centro nord della regione, e soprattutto da nubifragi, non solo da vento, raffiche di vento e grandine. L'acqua è quella che ha creato più problemi finora. Questo per quanto riguarda la Lombardia, ci sono stati problemi anche in Veneto e anche a Torino, anche se risolti questi ultimi. A Torino nella notte soprattutto sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco, principalmente per degli alberi che sono stati sradicati dalla pioggia, quindi hanno bloccato sia il traffico in alcune zone della città e anche gli interventi dei vigili del fuoco per risolvere gli allagamenti in quelle che sono le cantine di molte abitazioni, soprattutto nella zona di Pinerolo, quindi in alcune zone della città. Veneto invece? Veneto si conta i danni nel Padovano perché la pioggia si è abbattuta anche su questa regione, forte raffiche di vento anche qui, la caduta di molti alberi hanno addirittura paralizzato quella che è la linea ferroviaria tra Venezia e Treviso e anche lungo l'asse tra Padova e Vicenza, causando ritardi. Adesso anche qui la situazione si sta gradualmente evolvendo in positivo. Segnalo Reggio Emilia, dove la grandine ha completamente imbiancato la città nella notte fino a questa mattina ancora adesso, insomma. Allora, grazie a Francesco De Remigis. Noi poi ci andremo a collegare con la Protezione Civile Lombarda e con la Protezione Civile Veneta. Con la Protezione Civile Lombarda parleremo soprattutto di questa allerta che non è arrivata e poi naturalmente ci sarà da toccare il tema che negli ultimi 38 anni mediamente il Seveso è esondato 2,8 volte l'anno e sostanzialmente non ci si è messa mano. Veniamo alla politica. Ci sono le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi di questa mattina poco fa da Digital Venice, una manifestazione che si svolge a Venezia. Secondo Renzi ogni singolo euro investito in infrastrutture digitali va escluso dal patto di stabilità europea. E ancora, a proposito di Europa, ha detto l'Italia è una grande occasione di fare l'Italia, bisogna smettere di piangersi addosso e provare in mille giorni a cambiare faccia e interfaccia. Queste le parole di Renzi mentre a Roma si discute di riforme. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, intanto ti dico anche, ricollegandomi a te praticamente, che le parole di Renzi parlano anche di riforme e dice stiamo mettendo in campo tutto ciò che possiamo, faremo le riforme che abbiamo promesso a livello istituzionale, ma la prima è quella del lavoro. Si va avanti comunque sulle riforme istituzionali dopo 10 punti scritti dal Movimento 5 Stelle, il PD risponderà e dalla prossima settimana ci sarà l'incontro con il Movimento ricordiamo dice sì al superamento del bicameralismo perfetto ma chiede un senato elettivo e per quanto riguarda l'Italicum ok al doppio turno ma il primo con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento. Al senato intanto si contano i numeri ma il ministro Maria Elena Boschi non si dice preoccupata, in commissione però si va verso un rinvio almeno fino a domani sulle questioni che creano fratture politiche. Si dovrebbe andare avanti con gli emendamenti su cui non si registrano divergenze, ma è anche l'assenza di Roberto Calderoli, relatore, insieme ad Anna Finocchiaro a pesare. Il senatore leghista si sarebbe fratturato la mano cadendo a seguito di un malore. Si fa sentire poi il pressing di Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica esorta a far presto, auspica una riforma volta a superare il bicameralismo paritario, ma per il Movimento 5 Stelle il richiamo è assolutamente inopportuno. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito, adesso vediamo di analizzare questa situazione. Il punto di Stefano Folli. E ti ritroviamo anche oggi Stefano, buongiorno. Ecco, ciao Simone, ciao. Allora, oggi l'Unità titolava "I grillini piegano Grillo", forse o forse è stato Renzi a farlo. Ma insomma, guarda, siamo dentro una bolla tattica per quanto riguarda il rapporto con i 5 Stelle. Io francamente non esagererei a dare enfasi a queste notizie, avvicinamenti, di distacchi, assensi o negazioni rispetto ai vari punti condizionanti. Credo che si debbano vedere i risultati. I risultati è che allo stato delle cose non c'è un vero accordo, ma non c'è neanche un avvicinamento sostanziale fra i 5 Stelle e Renzi, anche perché questo incrocerebbe tutti gli altri accordi che sono stati presi da Renzi con Berlusconi e con Forza Italia, che ogni cosa porta a un'altra, no? E quindi in questo momento quel patto, il patto Renzi-Berlusconi, non può essere mandato al macero. Quello che Grillo vuole sicuramente invece è esattamente questo, incunearsi in quel patto e farlo saltare. Quindi, come vedi, è un gioco di scacchi in cui ognuno ha delle carte da giocare, ma non ha tutte le carte da giocare, nemmeno Renzi, quale procede con dei passi che sono meno vistosi di come qualcuno pensa e interpreta. Si sta avvicinando a un risultato per quanto riguarda il Senato, ma non sappiamo ancora se avrà quei famosi 2/3, la maggioranza dei 2/3 che lo metterebbe al riparo dal referendum confermativo. Se ci fosse invece la necessità del referendum, i tempi si allungherebbero. Quindi, insomma, dobbiamo condividere quello che dice il Presidente della Repubblica, l'urgenza di queste riforme, ma dobbiamo essere anche realisti. Si procede, ma non si sta correndo. Grazie a Stefano Folli per questo commento in diretta anche oggi. Passiamo alla cronaca adesso con una vicenda che richiama in parte quella delle cosiddette baby squillo. Facciamo il punto con Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Quando infatti questa mattina si sono aperte le porte di un'anonima palazzina nei pressi di Piazza Bologna, quindi di nuovo nel cuore di Roma, le rovine di tante altre adolescenze distrutte erano ancora tutte lì sotto quella montagna di scatti senza veli, sequestrati al fotografo Furio Fusco, arrestato e usati e finiti chissà dove. C'è l'ombra della pedopornografia nel nuovo scandalo di baby prostituzione che attraversa la Roma Bene, negli stessi quartieri appunto Parioli e Trieste, dove già 2 minorenni si vendevano a facoltosi clienti, come già ricostruito in un processo da poco arrivato a sentenza di primo grado. Ora si scopre che almeno altre 50 ragazzine tra i 14 e i 18 anni si lasciavano reclutare e fotografare nude. E l'isca è sempre la stessa, la prospettiva di soldi facili e l'ingresso nel mondo dello spettacolo. Non essere in ansia, anche le tue amiche hanno fatto così. Era la rassicurazione ripetuta più spesso dal fotografo, 50 anni, titolare di un'agenzia, alle ragazzine più spaventate dall'idea di farsi spogliare o toccare. È sul web e soprattutto sui social network come Facebook che l'uomo, secondo l'inchiesta della Procura di Roma, reclutava le sue giovani modelle, diciamo così, come alcune di loro hanno cominciato a raccontare, confermando che la maggior parte delle ragazze fotografate sono del 98 o 99, che lui le tocca tutte, riferisce nel dettaglio una di loro, e che loro sono sole, sole mentre venivano trasformate in materiale di scambio sul web. Dopo l'irruzione dei carabinieri nella palazzina di Fusco, le macerie di altre adolescenze rubate escono dal buio di uno studio fotografico per scuotere di nuovo la Roma bene e interrogare però anche l'intero paese. Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Noi adesso passiamo all'economia, anche se torneremo sulla cronaca più avanti con un'operazione antimafia di questa mattina a Catania, un'operazione importante, parleremo col procuratore capo di Catania. Passiamo all'economia, innanzitutto con i dati dell'Istat. La spesa delle famiglie ai minimi da 10 anni, addirittura a livelli di spesa inferiori appunto a quelli del 2004, questo per quanto riguarda il 2013. Sono due le tipologie familiari più colpite dalla contrazione dei consumi, riferisce l'Istat, le famiglie operaie e quelle in coppia con due figli, ma da quello che emerge dai dati Istat anche il 20% delle famiglie più ricche ha tagliato la spesa nel 2013. Anche su questo torneremo più avanti e ci collegheremo con un dirigente dell'Istat che ci darà un quadro più preciso. Intanto parliamo di pensioni e dell'INPS perché oggi è arrivata la relazione. Nel 2013 in Italia oltre 6 milioni e 800 mila pensionati, cioè il 43% del totale, hanno ricevuto un assegno mensile lordo inferiore ai 1000 euro. Fra questi poi in 2 milioni e 100 mila non sono andati oltre i 500 euro al mese. A rilevarlo è l'INPS nel suo rapporto annuale. Lo scorso anno, secondo l'istituto, il reddito pensionistico medio nel nostro paese è stato di quasi 1300 euro al mese e le pensioni delle donne si sono confermate di un terzo più leggere di quelle degli uomini. Secondo l'INPS il 2013 è stato segnato da un crollo delle pensioni liquidate anche a seguito della stretta prevista dalla riforma Fornero. Tra mobilità, vari tipi di indennità di disoccupazione, ASPI e mini ASPI, sempre nel 2013 quasi 1.500.000 persone hanno beneficiato di trattamenti legati alla perdita del lavoro, ha fatto poi sapere il commissario straordinario Vittorio Conti. Per quanto riguarda infine i bilanci dell'istituto, si sono chiusi con un saldo negativo di 9,9 miliardi dovuto in larga parte all'accorpamento dell'INPDAP, l'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici. Questo però, assicura l'INPS, non mette a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E prima di chiudere, di andare a sentire cosa succede sulle strade, di chiudere questa prima parte, c'è qua in studio con me Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. E parliamo di mondiali perché oggi la prima semifinale. Eh sì, partitona. Brasile-Germania, se vogliamo una partita a pronostico invertito perché, e anche a situazioni invertite, perché la Germania è più tecnica, è più forte del Brasile che ha perso i suoi due migliori giocatori, parliamoci chiaro, Neymar che è infortunato e Thiago Silva che è squalificato. Thiago Silva che tra l'altro ieri è stato in maniera molto provocatoria portato in conferenza stampa, è stato fatto ricorso alla FIFA contro questa squalifica, la FIFA lo ha rigettato e Scolari ha portato il suo capitano in squalificato in conferenza stampa. Sarà una partita in cui la Germania parte favorita, la Germania è più forte, più tecnica, più completa. Il Brasile dovrà inventarsi qualche cosa, magari come dice qualcuno, metterla sulla corsa, provare ad incendiare lo stadio di Belo Horizonte, o magari metterla sull'arbitro, qualcuno pensa. Bravo, magari metterla sull'arbitro, che tra l'altro sai chi è, no? Lo stesso che ha diretto quello del morso di Suarez, che non ha visto il morso di Suarez, che ha diretto Italia-Uruguay, il signor Rodriguez Moreno, messicano. E tutti a dire, ma come? Questo che ha fatto quegli errori di quel tipo adesso viene chiamato ad arbitrare la semifinale. Sì signori, sarà lui a dirigerla. E sarà davvero una partita molto interessante, perché Brasile, padrone di casa, certamente non è favorito. Tra l'altro, tra poco, con tutti i sospetti, i dubbi del caso, c'è tra un attimo la conferenza stampa di Prandelli. È appena cominciata, adesso stiamo provando a sentire le sue prime parole dell'allenatore del Galatasaray. Ma è strano anche qui, gessato blu, cravatta rossa, pallini gialli, una faccia molto distesa. Mentre i giochi mondiali che lo hanno visto protagonista non sono ancora finiti, per lui è già tempo di nuove e diverse conferenze stampa, presentazione da allenatore al più importante club turco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Piaccio o no ai frenatori, noi le riforme le facciamo, così il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In settimana prossima l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle su, appunto, riforme e legge elettorale dopo l'ok condizionato dei grillini. Le piogge e l'esondazione del Seveso allagano un pezzo di Milano nel giorno nel quale la città ospita il vertice europeo dei ministri degli interni e della giustizia. È già scontro sull'allerta arrivata in ritardo. Il maltempo ha colpito anche il Veneto. Anche qua allagamenti, alberi sradicati e caduti su alcune linee ferroviarie dove il traffico si è interrotto. 50 minorenni ritratte nude molestate in due quartieri bene della capitale. Arrestato un fotografo, nel suo PC c'erano centinaia di scatti. Saluto Linda Laura Sabadini, che è direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Con lei vogliamo parlare dei dati che avete diffuso oggi, che sono i dati che riguardano l'intero 2013 della spesa delle famiglie. L'impressione, Sabadini, è che, come dire, si sia toccato il picco minimo, per così dire, della crisi da questo punto di vista. Diciamo che nel 2013 noi abbiamo un calo della spesa media mensile per famiglia del 2,5% rispetto all'anno precedente, e questo vuol dire che, siccome da un punto di vista della dinamica inflazionistica stavamo al più 1,2, la spesa è diminuita anche in termini reali. Ora, la diminuzione che è avvenuta di questa spesa non è la stessa per tutte le tipologie di spesa, diciamo così, perché diminuisce soprattutto la spesa non alimentare, e quello che succede è che nella spesa non alimentare quello che diminuisce di più è la spesa per abbigliamento e calzature, dove arriviamo all'8,9% di calo, la spesa per tempo libero e cultura 5,6%, la spesa per le comunicazioni. Senta, sì. C'è un dato che colpisce abbastanza. Nel 2013 ha ridotto le spese anche il 20% di famiglie più ricche. È un elemento interessante, è una novità oppure no? No, non è una novità, perché nell'arco di questa crisi quello che è successo è che non sono state soltanto i segmenti di famiglie più povere che stavano peggio, che hanno ridotto i consumi. In diverse fasi della crisi stessa abbiamo avuto anche famiglie del ceto medio che hanno cominciato a ridurre i consumi. In questo anno in particolare la riduzione è più forte per i primi due decili, diciamo così, della distribuzione. Quindi per le fasce, per il 20%, chiamiamolo così, più povero. Mentre però, se si va a analizzare bene, ci si accorge che anche nelle fasce medie e anche nelle fasce alte un po' di riduzione c'è stata. Ovviamente le cause di questa riduzione possono essere diverse, tra queste c'è anche il fatto che dopo una lunga fase in cui le famiglie hanno dato fondo ai propri risparmi, abbiamo raggiunto il minimo della propensione al risparmio, si è aperta anche una fase in cui le famiglie cominciano a porsi il problema di ricostituire un po' i propri risparmi intaccati dalla crisi, nella fase, diciamo, della crisi precedente. Quindi, diciamo, le motivazioni che poi ci stanno dietro, no, a questa riduzione dei consumi nelle fasce più basse, nelle fasce più alte, non è che sono sempre le stesse, ovviamente. Cioè, lei dice in sostanza che in alcuni casi le famiglie hanno deciso, per così dire, di ricostituire il patrimonio, cioè hanno deciso di spendere di meno per, la dico molto semplicemente per i nostri ascoltatori, tenersi i soldi in banca magari, tanto ma per fare un esempio. È mostrato anche dal fatto che abbiamo raggiunto a un certo punto il minimo della propensione al risparmio, poi un pochino la propensione al risparmio ha ricominciato a crescere. Quindi questo è un segnale che è venuto fuori abbastanza evidente. Ora è chiaro che poi nei periodi di crisi le famiglie si danno anche delle strategie nei confronti sia dei consumi che delle spese. Una delle strategie è quella di eliminare gli sprechi, un'altra delle strategie è quella di rivedere quantità e qualità dei prodotti che vengono, no? acquistati, sì, in qualche certo. modo, no? Per esempio, una cosa che abbiamo visto è che anche sull'alimentare, che è un settore che invece non vede diminuzione perché la spesa alimentare è sostanzialmente stabile, c'è una diminuzione della spesa in particolare per quanto riguarda la carne, non per gli altri. Quello che viene fuori è che aumenta la percentuale di famiglie che hanno ridotto quantità o qualità e che si sono rivolte in particolare agli hard discount. Quindi in sostanza nei comportamenti di consumo noi non dobbiamo vedere soltanto il risultato finale della spesa media, quel risultato finale è il frutto di una serie di aggiustamenti e di strategie che le famiglie stesse si danno nei confronti di una crisi che, come sappiamo, oltre a essere profonda, è lunga. Allora, io la ringrazio. Ringrazio Linda Laura Sabbadini, che è direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, perché con quest'ultima risposta ha risposto anche l'ascoltatore che ci scrive: se c'era da fare uno studio per determinare il calo delle spese, basta chiederlo ad un paio di nonni. No, come vede, sappiamo in questo modo non solo quanto sono calate le spese, ma insomma appunto di quanto sono calate e perché sono calate, il che dovrebbe contribuire alle decisioni politiche. Insomma, poi che questo accada oppure no è un altro discorso. Grazie a Linda Laura Sabbadini e saluto Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma. Bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Con noi per parlare questa volta di Medio Oriente c'è una notizia di una fonte ufficiale presente ad una riunione a Tel Aviv, citata dal quotidiano israeliano Haaretz, che dice che l'offensiva terrestre su Gaza è sul tavolo e le istruzioni del premier sono prepararsi ad una profonda, lunga, continua e forte campagna. Lei, dottori, la vede possibile oppure no? Perché abbiamo interpellato molte persone nei giorni scorsi, le quali ci hanno detto forse Israele in questo momento è in difficoltà nel poter pensare appunto ad un'offensiva di terra, anche per le tensioni che attraversano tutta la regione. Guardi, è molto complesso e se ne sta discutendo in ogni dove. Bisognerebbe capire in realtà quello che sta succedendo e tutto lo scenario regionale in cui gli eventi di questi giorni stanno maturando. Noi siamo partiti da un atto di violenza circoscritto, verosimilmente compiuto da elementi che sono al di fuori del mainstream di Hamas, cioè della componente principale di Hamas, e che ha provocato un intervento di rappresaglia piuttosto puntuale, piuttosto circoscritto e senza uso sproporzionato della forza da parte israeliana. Dopodiché c'è stato un lancio di razzi più o meno continuato che ha integrato gli estremi di una provocazione di una certa consistenza che evidentemente deve avere indotto il premier israeliano a mutare atteggiamento. Occorre tenere presente nella cultura politico-strategica di Israele la decisione di non rispondere con la forza a un attacco è sempre esposta al rischio di critiche molto pesanti. Nel DNA di Israele c'è l'Olocausto e c'è una corrente di pensiero in Israele e nella comunità ebraica mondiale più in generale che riconduce alla tendenza degli ebrei a non rispondere alle offese, esattamente ciò che ha condotto gli ebrei nei forni crematori durante la Seconda Guerra Mondiale. Per cui È molto facile indurre Israele ad una rappresaglia che non sempre è nei suoi interessi di fare. Ora, e quindi lei dice in sostanza, dottori, questa rappresaglia potrebbe avvenire nonostante, da un punto di vista di pura analisi, tutto questo non converrebbe ad Israele, stante anche una situazione regionale, pensiamo tanto per dire alla situazione in Siria, che è di tensione elevatissima. C'è un elemento in realtà che è incognito. Noi non sappiamo, alle spalle dell'accordo tra Fatah e Hamas, se è intervenuto un accordo a monte tra una o più potenze regionali che lo abbiano sponsorizzato. Questo è un elemento incognito senza il quale non si riesce a stabilire con esattezza cosa sta succedendo. Le dico, per fare un dare concretezza a quello che sto dicendo, se per ipotesi l'accordo tra Hamas e Fatah avesse avuto un elemento di coinvolgimento saudita, per Israele attaccare Hamas è più complicato di quanto lo era prima. Se di contro invece Hamas, come altri sostengono, ha fatto l'accordo con Fatah di sua spontanea iniziativa, perché messo alle strette e senza via di uscita, non è da escludere che i sauditi consentano tacitamente a un tentativo israeliano di liquidarlo. Nel qual caso allora veramente diventerebbe possibile un'operazione di terra. Questa è una cosa, ripeto, che comunque pone moltissime incognite, perché certo, intervenire a Gaza non è una cosa che può essere fatta chirurgicamente con spargimento di sangue limitato da ambo le parti, è una cosa che implica entrare in uno scenario in cui c'è combattimento urbano, impossibilità di discriminare tra combattenti e civili, ed ovviamente a quel punto lì il rischio di delegittimare interamente una politica è dietro l'angolo. Quindi io spero ancora che Netanyahu in qualche maniera non dia questo ordine di attacco. La ringrazio, grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, e saluto Giovanni Salvi, che è procuratore capo a Catania, procuratore della Repubblica Catania. Buongiorno e benvenuto. L'abbiamo chiamata perché oggi avete condotto un'operazione importante, un'operazione contro la mafia e contro i vertici del clan Mazzei, se non erro. Ci dà la misura dell'importanza di questa operazione, procuratore? Sì, un'operazione che si collega ad altre indagini che sono state condotte negli anni passati, una dei quali recente ha individuato gli elementi che riguardano soprattutto le infiltrazioni di tipo economico di questo clan Mazzei, che è un clan affiliato a Cosa Nostra. Oggi si è messa una misura restrittiva nei confronti di quello che è ritenuto attualmente il capo, Sebastiano Mazzei, che è latitante, un gruppo di altri aderenti al clan che controllavano attività economiche nel quartiere del centro e che svolgevano un importante traffico di stupefacenti. Senta, avete verificato anche contatti con l'Andrangheta o ho letto male? Sì, nel senso che vi sono, questi ormai sono abbastanza comuni e acclarati, vi è una sorta di spartizione del terreno del grande spaccio, la cocaina è attribuita di fatto, da quello che insomma è emerso in varie indagini, all'Andrangheta, mentre nell'area della Sicilia orientale il grande traffico soprattutto di droghe leggere, hashish e marijuana. Infatti sono state sequestrate alcune tonnellate di queste sostanze stupefacenti negli ultimi mesi. Allora ci sono stati sequestri di società, negozi, conti correnti, immobili, tutto in zona o anche fuori da no, questo, Sicilia? Queste sono nel quartiere di San Cristoforo, che è un quartiere appunto centrale di Catania, in questa parte dell'operazione è strettamente catanese. Nelle settimane passate era stato completato un lavoro invece che aveva coinvolto varie regioni italiane, che riguardava il fallimento di società che venivano fatte fallire per lucrare appunto sulla distrazione dei beni, sempre ricollegabile al clan Mazzei, tanto che per la prima volta credo fu contestata l'aggravante della mafiosità anche nei reati fallimentari. Grazie a Giovanni Salvi, procuratore capo a Catania, per questi chiarimenti su questa operazione. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la borsa, poi subito dopo ci ritroviamo e torneremo a fare un punto sulla situazione maltempo, tanto in Lombardia quanto in Veneto, più che maltempo, i danni provocati dalle piogge di queste ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Le piogge e l'esondazione del Seveso hanno allagato un pezzo di Milano nel giorno nel quale la città, tra l'altro, ospita il vertice europeo dei ministri degli interni e della giustizia. È già scontro sull'allerta arrivata in ritardo. Parla Juncker e dice il commissario europeo all'economia sarà un socialista, e ancora ci vuole flessibilità perché il treno europeo non deragli. In settimana prossima l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle su riforme e legge elettorale. Renzi promette che il PD l'avrà vinta sui frenatori. La spesa delle famiglie nel 2013 ha toccato i minimi da 10 anni. A tagliare i consumi sono state anche le famiglie più ricche. La borsa. Borse in diretta. Brutta giornata, meno 1,20% sul FTSE MIB, meno 1,16% sul FTSE OCHER, mentre il resto d'Europa va meglio. Francoforte mezzo punto di calo, Parigi altrettanto e Londra meno 0,53%. Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come mai vanno così male le cose? Ma non c'è una ragione precisa, diciamo che le borse nelle ultime settimane avevano raggiunto i massimi, insomma qualche realizzo a sentire gli operatori è quasi fisiologico. A dire la verità, anche ieri le borse andavano male, stamattina avevano aperto bene, Milano è in rialzo dello 0,2%, poi le vendite sono affluite in particolare sui titoli finanziari, anche qui senza una ragione precisa, anche perché lo spread diciamo è su livelli diciamo stabili, attorno a 160 punti base. E Milano, come spesso accade quando ci sono dei movimenti così violenti, è la peggiore del vecchio continente e perde, come dicevi, l'1,2%. Questo per quanto riguarda Milano. Ci sono singoli titoli da segnalare in breve, Ceo? Ma guarda, possiamo dire tra i titoli che perdono terreno, soprattutto tutte le banche, segnaliamo che Generali perde il 2,4%, era il titolo peggiore in apertura dopo che il fondo strategico ha collocato il restante 1,9% che aveva in portafoglio appunto del Leone. Tra i titoli invece che brillano in rialzo c'è sicuramente Buzzi Unicem che guadagna il 2%, anche qui c'è un report positivo del broker Kepler che sottolinea come il titolo è sottovalutato rispetto ai competitor. E grazie a Ciao Condina di Radio Cori sulle 24 ore. Buona giornata e a più tardi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Roberto Tonellato, dirigente della Protezione Civile in Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come vanno le cose? Beh, insomma, abbiamo avuto in questi giorni e continua anche nella giornata di oggi, magari con rilievi inferiori a quella di ieri sera, speriamo, diciamo le precipitazioni, gli eventi temporaleschi, i rovesci insomma che hanno colpito parte principalmente del Padovano ma anche altre aree insomma. Quindi i problemi maggiori a Padova? Sì, a Padova c'è stato effettivamente circa 18 comuni, incluso il comune capoluogo, sono stati ieri sera colpiti. La provincia di Padova appunto ha aperto anche la sala operativa, ci siamo attivati anche noi come regione con le nostre reperibilità e quindi abbiamo fornito quell'assistenza, i volontari sono intervenuti nel territorio e sono stati chiamati evidentemente anche i vigili del fuoco per quella serie di interventi specifici, insomma più complessi ovviamente. Senta, al momento quali sono i problemi maggiori, perché abbiamo letto anche di linee ferroviarie interrotte? Beh, ci sono appunto, abbiamo avuto problemi legati al blackout elettrico su più zone, appunto in queste aree maggiormente interessate, poi aree allagate, anche gli aspetti degli alberghieri sono stati coinvolti da questi eventi, per cui questo è principalmente, e alberi soprattutto quindi caduti, sradicati, e che hanno creato problemi alla viabilità. Grazie, grazie ingegner Tonellato, e saluto il dottor Gregorio Mannucci, che è responsabile gestione emergenze della Protezione Civile della Lombardia. Mannucci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo uno stato dell'arte, soprattutto dell'arte, si fa per dire naturalmente, certo. Tanto a Milano quanto nel resto della regione. Ma in sintesi diciamo che le zone più colpite da questo evento alluvionale sono quelle del nord milanese, nord-nord-est, quindi a cavallo fra il comune di Milano e la provincia di Monza e Brianza. In realtà però i problemi più grossi, che comunque sono limitati a degli allagamenti, sono sugli assi viari che portano a Milano, quindi zona Fulvio Testi, Niguarda, fino a all'ingresso a Milano in Piazzale d'Agosto e zone circostanti. Senta, senta una cosa, allora abbiamo visto, abbiamo anche molti ascoltatori milanesi che ci stanno scrivendo per tutti i disagi che ci sono stati, questa mattina. È già partita una sorta di micro polemica che sicuramente avanzerà nei prossimi giorni. Dice la Protezione Civile non ha, quella lombarda non ha dato l'avviso in tempo di avverse condizioni meteo e quindi non abbiamo aperto i tombini. La segnalazione di un cambiamento abbastanza, abbastanza importante delle previsioni meteo è stato inviato da Arpa Lombardia Centro Funzionale nella serata di ieri, ma le zone che venivano indicate come più soggette a fenomeni piovosi e temporali, quindi eventi pluviometrici, erano lontane dalla zona dove poi in effetti i fenomeni si sono verificati. Per cui non appena questa segnalazione è arrivata, le sale operative di regione, provincia e comune si sono parlate per mettere in atto subito quelle che erano le operazioni emergenziali durante la notte. Però era un po' tardi, dice lei, in sostanza, cioè no. No, perché comunque la previsione è quella che si può fare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi l'area che poi è stata colpita è stata interessata, è un'area dal punto di vista meteorologico molto molto ristretta, ma in questa zona è caduta una quantità di pioggia che è andata a interessare proprio i due bacini idrografici del Seveso, che è esondato, e dell'Ambro, che invece in questo momento è una situazione di criticità. Non ci sono stati ancora fenomeni di esondazione. C'è il rischio che esondi anche l'Ambro? Se la situazione meteo dovesse essere ancora negativa, è possibile che anche l'Ambro esondi, a partire dal lago di Pusiano fino ai paesi sottostanti, fino a Milano, Melegnano. Mi sembra di aver capito quello che dice lei, che su queste cose, ed è anche comprensibile, c'è un certo tasso di imprevedibilità, cioè non sai dove la pioggia colpirà più forte. Sì, soprattutto non si riesce a avere una previsione assolutamente deterministica, quindi delle indeterminazioni sono insite nel sistema previsionale, ma per di più queste situazioni estive dove ci sono eventi proprio meteorologici, quindi delle perturbazioni vere e proprie a cui si associano fenomeni temporaleschi, sono le situazioni più difficili da prevedere. Perché poi a tempi di formazione veloci, sono fenomeni che si creano velocemente e si esauriscono anche velocemente, buttando sul territorio delle quantità di acqua che sono veramente rilevanti. Certo, e poi c'è il punto, ma non so se quanto sia il suo campo questo, che ne abbiamo parlato prima in apertura di trasmissione, abbiamo fatto due calcoli molto rapidi: dal 1976 il Seveso è esondato 108 volte, fa 2,8 volte di media all'anno, quello è un tema, no? Sì, il problema del Seveso è un problema, come dice lei, noto e ormai anche abbastanza vecchio. Adesso all'interno di un accordo di programma che abbiamo con gli enti del territorio stiamo proprio lavorando su un sistema previsionale molto molto specifico sul nodo idraulico di Milano, che quindi riguarda il Seveso, riguarda il Lambro, riguarda comunque tutti gli scolmatori che stanno intorno a Milano. È un progetto che dovrebbe essere portato a compimento con la metà del prossimo anno.